Friuli nel mondo, 97esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villotte in ritmo. Queste musiche che seguono, armonizzando vecchi motivi di canti popolari friulani, sono il frutto dell'estro di un giovane maestro, Bruno Rossi, al quale l'amore alla tradizione e al folklore friulano, accompagnato dalla passione per il ritmo moderno, ha suggerito di interpretare i vecchi, ma pur tanto melodici canti popolari del Friuli, secondo gli schemi tradizionali della musica leggera d'oggi. Il complesso Rossi vuole oggi farvi ascoltare la villotta dal titolo Sunait Champanis. È un antico componimento popolare, pieno di accorato amore e mesto come i rintocchi di una campana, che nulla perde della sua originaria freschezza e della sua pura linea melodica, pur se adattata alle esigenze delle attuali interpretazioni. Canta Bruno Rossi. Thank you. Ascoltate ora come la scanzonata villotta L'Allegrie e Ie dai Zovins viene interpretata dai nostri giovani. E l'allegria, e Ie dai Zovins, e l'allegria, e Ie dai Zovins, e l'allegria, e Ie dai Zovins, e no dai vecchios, no dai vecchios maridas. E l'ampiarduda, pielanta messe, e l'ampiarduda, pielanta messe, e l'ampiarduda, pielanta messe, e in quel dì che son sposas. E l'ampiarduda, pielanta messe, e l'ampiarduda, pielanta e l'ampiardude, pielanta messe, e in quel dì che son sposas. L'antica villotta, la parte serade, è una danza che si ballava a suon di tintine. Una villotta ed una danza insigne questa, se il grande Beethoven ne ha inserito il motivo nella sua sonata numero 81. Ascoltate questo canto singolare, frannarrato e dialogato, tenuto su un doppio registro di scantonatura e di allusione. Boccagne di Firenze vas tu, boccagne di Firenze vas tu, la parte si arrade, le sclasse son su, tan basse che il topi non piace al son, la marincosine se vas tu lassù, e un cazzo bestiale scalpò il suo e io, la Nella villotta L'hai domandare risabide, in cui il sentimento dell'amore si fa sogno e speranza, il complesso ha voluto imprimere un carattere di notevole vivacità per interpretare il più possibile i sentimenti tumultuosi che agitano il cuore dell'innamorato. L'hai domandare risabide, se fa l'amore con me, e allo cordere spende me, e allo cordere spende me. L'hai domandare risabide, se fa l'amore con me, e allo cordere spende me. No, no, no, la me, ma tu rinconta l'anima, speri di agimo, che devi dire spende me. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pelizzari. Ha suonato il complesso diretto da Bruno Rossi.